Now practice asking for someone's name by saying, Scusi, come si chiama? And then giving your name, beginning with the expression, Piacere. Is an example. Scusi, come si chiama? Mi chiamo Cristina Agnelli. Piacere, sono Roberto Gigli. Now it's your turn. After you hear the Italian for 1, 2, 3, or 4, ask for the person's name. After the response, introduce yourself using either Mi chiamo or Sono. 1. Mi chiamo Cristina Agnelli. 2. Sono Roberto Gigli. 3. Sono Angela Nelli. 4. Mi chiamo Lorenzo Conti.